Europa 24. Buongiorno, avete sentito dunque alla Sapienza, c'è stata una mattinata molto movimentata all'esterno dell'università, all'interno si parlava di ambiente, di green economy, molti ospiti, avete sentito nel corso dei nostri giornali radio di fatto una forte rappresentanza del governo, guidata dal ministro Orlando, ma c'era anche il commissario UE all'ambiente, lo sloveno Potocny, che è stato intervistato dal nostro Lorenzo Rossi. Il messaggio è che dobbiamo riconciliare lo sviluppo economico con la natura e i limiti del pianeta, e questo è più che ovvio. Prima cominciamo ad agire come parte integrante della natura e prima cominceremo ad agire come esseri umani intelligenti, come noi ci si aspetta che siamo, e meglio sarà il modo in cui riusciremo a risolvere una situazione di stallo nella quale ci ritroviamo. Questa situazione non è solo una sfida per noi, è anche una grande opportunità per trovare delle giuste risposte alla crisi. È una grande opportunità anche per risolvere soluzioni innovative, intelligenti, foriere di nuovi posti di lavoro e di nuova crescita. Quindi il mio messaggio oggi è quello di lavorare insieme, economia e ambiente, che sono due lati della stessa moneta. Però c'è un problema. Yes, per esempio, but we have a problem. C'è stato il fallimento della conferenza di Varsavia, dove failure of the Warsaw Conference. Gli Stati europei si sono mossi in maniera isolata. Was definitely not the solution. Diciamo che non va chiamato un fallimento, ma sicuramente non era la soluzione. So it would be important that this step in Warsaw is properly used. Questa tappa di Varsavia va utilizzata in modo adeguato, e quindi diciamo la parola collettivamente è quello che ci può portare alla soluzione a Parigi nel 2015. Lorenzo Rossi ha intervistato il commissario all'ambiente Potocny poco fa, dunque all'interno dell'Università La Sapienza di Roma, mentre nello stesso momento di fatto interveniva nella plenaria del Parlamento europeo, che come sapete si svolge tradizionalmente a Strasburgo. Mario Draghi ha presentato invece il dibattito sul bilancio della BCE. Draghi ha detto non si ha crescita né equità attraverso la creazione infinita di debito. Allo stesso tempo va tenuto in mente che questo non è un momento di tornare al nazionalismo. Se non sono state fatte le riforme strutturali, queste si devono fare, che si sia dentro o fuori dall'euro. E Draghi poi ha concluso di fatto la difesa della moneta unica affermando, ha detto, teniamo bene a mente che non è colpa dell'euro se ci sono certe debolezze nell'eurozona. Ecco, questo nella giornata appunto del dibattito plenario al Parlamento europeo di Strasburgo. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.